Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati. La sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms. Prima parte. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e comincio con voi oggi un viaggio nell'ultima produzione di Johannes Brahms, per la precisione quell'ultima produzione che ha al suo centro un rapporto magico con il clarinetto. Magico e improvviso, perché era uno strumento che fino a pochi anni prima Brahms aveva utilizzato come tutti gli altri, che improvvisamente diventa il protagonista della sua musica. Però, con calma, prima di intraprendere il discorso diretto, cioè vi annuncio che oggi parleremo e ascolteremo del primo movimento della sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte, ma prima di fare questo devo dire qual è il mio centro di interesse. Non posso dimenticare, magari qualcuno ha anche ascoltato, il fatto che nelle puntate precedenti avevo parlato di alcune novellette di Robert Schumann, anche in quel caso per poter parlare del comportamento del compositore rispetto alla forma. Insomma, al centro dei miei interessi, di quello che vi voglio proporre, c'è una riflessione sulle possibili nature del comporre, sulle differenti attitudini rispetto al comporre, rispetto al costruire forme. L'accostamento tra Schumann e Brahms, che magari distrattamente possono essere appaiati come compositori romantici, è in realtà più che un accostamento, è una vera e propria contrapposizione netta, violenta, di due attitudini più che diverse, opposte. In Schumann, come ho lungamente detto nelle settimane precedenti, il comporre è un vero e proprio flusso di coscienza, la partitura è impresa diretta, un grafico della psiche piuttosto sconvolgente. In Brahms, per Brahms, il comporre è un processo lento, meditato, lungamente progettato, fatto di riflessioni su piccole cellule emotiviche che si trasformano, che vengono trasformate su fogli di appunti, utilizzando le modalità del contrapunto e della polifonia in maniera molto misteriosa e estremamente ricca. Il comporre di Brahms è un processo genetico in cui tutto in relazione a tutto, anche quando non ci accorgiamo, e tutto si trasforma continuamente e coscientemente, cioè il compositore ha sempre il pieno controllo del processo compositivo. E tutto questo avviene all'ombra, diciamo sotto l'ala protettiva, apparentemente rassicurante, delle forme antiche, cioè sonate fatte in quattro tempi, con un allegro, degli adagi, eccetera, eccetera. E infatti proprio questo, dobbiamo ricordare che stiamo parlando dell'ultimo periodo di vita di Johannes Brahms, e quindi degli anni, già degli anni 90, Johannes Brahms è morto nel 1897, a 64 anni, a volte ci si dimentica, lo si colloca genericamente tra gli autori romantici di ambito tedesco, e ci si dimentica che Brahms è morto poco prima del XX secolo e che quindi fiutava l'aria e fiutava delle arie diverse da quelle che si possono immaginare. Non si può non sentire a volte in Brahms influssi di tipo francese nell'uso dell'armonia molto sfumata, ma questo lo diciamo noi oggi. In realtà Brahms agli occhi del mondo in quel momento era il musicista regressivo, il musicista appoggiato al passato, il musicista che voleva riproporre un modello beethoveniano, diciamo, laddove la musica era stata, come dire, travolta dallo spirito wagneriano. La contrapposizione è sempre Brahms-Wagner, e Wagner appariva essere il futuro, con i suoi cromatismi, con i suoi flussi musicali, eccetera, e Brahms appariva essere il ripiegato, sostanzialmente. In realtà, spesso nella storia della musica è successo che vengano presi per regressivi coloro che di fatto sono profeti di un futuro più lontano. L'esempio più clamoroso è quello di Bach, naturalmente, che era stato liquidato come un medievalista complicato, troppo complicato, dagli autori galanti, e in realtà Bach è poi padre di tutta la musica successiva, più successiva di quella che c'era immediatamente dopo di lui. Che cosa ha cambiato il nostro punto di vista su Brahms? Un noto, famoso saggio di Arnold Schoenberg scritto in occasione del centenario della nascita di Brahms, cioè nel 1933, dove con lo stupore generale aveva messo come titolo Brahms il progressivo e non il regressivo, come tutti pensavano. Perché? Perché l'eroico uomo romantico di Wagner, quello che spacca il mondo, quello che sa trasformare il mondo, è un uomo estremamente ottocentesco, che ha ancora la certezza di poterlo fare. Brahms, in realtà, soprattutto in questo ultimo periodo della sua vita, è un uomo complesso, e la sua musica è una musica complessa, frantumata, e che, come tutto l'uomo dell'inizio del Novecento, forse devo dire come tutto l'uomo moderno del XX secolo, è così, come dire, così perduto le sue certezze e la sua solidità da aver bisogno di ostentare viceversa delle corazze. Questo riferimento alle forme antiche, alla classicità, è semplicemente un'ostentazione di una certezza che è infranta all'interno, infranta per vari motivi, infranta per l'unità che dà al tutto, ma anche perché questa unità poi alla fine dei conti è fatta di cellule tematiche assolutamente frantumate. Cominciamo ad arrivare vicino alla sonata. Siamo, ripeto, negli ultimissimi anni di vita di Brahms. Brahms subisce improvvisamente un invecchiamento. Si fa quasi volontariamente, credo, è vero che beveva molta birra, si fa crescere una grande pancia, si fa crescere questa barba lunghissima, bianca, si chiude in maniera molto riservata, è sempre stato riservato ma adesso diventa un uomo chiuso, si dedica alla musica da camera, che è evidentemente una musica riservata, perché è una musica per pochi, e conosce il clarinetto attraverso chi? Attraverso la conoscenza con un grande clarinettista, che era il primo clarinetto dell'orchestra ducale di Meiningen, che era Richard von Mühlfeld. Non so se fosse un virtuoso, evidentemente era un magnifico musicista, non credo che Brahms potesse essere colpito dal virtuosismo, anche perché che cosa gli interessa subito del clarinetto? Gli interessa il tono sfumato, crepuscolare, questa specie di suono di velluto della regione medio-grave del clarinetto. Tenete presente che siamo già negli anni 90 dell'Ottocento, e anche se l'accostamento vi sembra assurdo, in realtà mancano poco più di 20 anni a quando invece Stravinsky scriverà dei pezzi per clarinetto solo che sono invece petulanti, acuti, lancinanti, con un clarinetto totalmente diverso che penetra nelle orecchie. E pensate che poco dopo Bartok scriverà i suoi contrasti per clarinetto, violino e pianoforte, in cui il clarinetto sarà suonato da Benny Goodman, e quindi siamo in un clarinetto che è quello del jazz. Ecco, quello di Brahms è esattamente l'opposto. E così affascinato da questo suono, in pochissimi anni, dal 91 al 94, scrive dei capolavori quali il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi e due sonate per clarinetto e pianoforte. Queste sonate sono le ultime state scritte. Io parto da una sonata perché mi è, direi, più facile presentarvene gli aspetti costituenti in maniera più dettagliata. Il mio argomento centrale è la modificazione continua, totale, maniacale delle cellule tematiche, e il fatto che tutto in relazione, dovrei dire che i livelli sono tre. Esternamente si afferma una forma classica, sotterraneamente, cioè, e quindi una forma fatta di vari movimenti che di solito non hanno assolutamente una relazione l'una con l'altra, invece in Brahms tutto sarà unito da sotterranee relazioni tematiche, ma questa unità di fondo viene spezzata dal fatto che si procede per piccole cellule, una separata dall'altra, quindi è una continuità fatta di frammenti. Vedremo anche che vengono sfumati tutti i contrasti forti tra primo tema e secondo tema. Comunque, siccome adesso ho parlato anche troppo, passiamo direttamente all'ascolto della prima area tematica, delle prime 24 battute della sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte. Parlando di Brahms, non si può entrare un po' nel dettaglio per vedere come sono fatte i suoi temi, le sue cellule motiviche. Intanto, incomincio col dire che tutti i materiali tematici, non del primo movimento, ma dell'intera sonata, provengono dall'iniziale perorazione del pianoforte. Devo dire che spesso, data l'indicazione allegro appassionato, la si suona un po' troppo forte. In realtà lui scrive poco forte, e il poco forte di Brahms assomiglia più a un piano sonoro che non ha un forte, ma di solito si vede la F di forte e si suona un po' forte. La cellula iniziale è questa. È Avete sentito una specie di movimento un po' serpentino, no? Con questi... con questo. Ma non fatevi ingannare. Sotto sotto è molto semplicemente e molto poveramente una scala discendente. E il suono più forte le note della scala. Cioè... una scala dal fa al fa, siamo una sonata in fa minore, quindi una scala di un'ottava dal fa al fa, con l'anomalia del sol bemolle rispetto al tono di fa minore, il materiale più povero possibile. Andando avanti a parlare di povertà, Brahms adora i temi fatti di pochissimi intervalli e adora gli intervalli piccoli, perché la sua, anche questa è una forma di riservatezza, cioè non fare melodie di ampi intervalli drammatici, ma di girare intorno alle note. È una semplice scala ornata e con dei frammenti un po', io dico serpentini perché sembra che si mordano la coda, tipo... no, è un girare intorno. È importante sapere che questo inizio ha il peso sotterraneo di un soggetto di fuga, cioè è l'elemento da cui tutto verrà. L'ingresso del clarinetto subito dopo, a proposito di cellule frantumate, sembra essere totalmente diverso. Adesso voi mi direte, come appena detto di piccoli intervalli, qua si sentono dei salti terribili. Attenzione, perché se la leggiamo meglio questa cellula, certo che si slancia. Innanzitutto c'è una cosa in comune con la prima cellula e con tutte le cellule di questa sonata. Vedremo poi nelle puntate successive anche delle cellule del quintetto, cioè sono tutte cellule discendenti, che vanno dall'acuto al grave. Sono tutte cellule che ripiegano, che si slanciano ma ripiegano. È vero che ci sono dei salti, ma questi salti ritornano sempre in giù. Poi salta qua, ma scende. Questa cellula, questa seconda cellula, è, se io la suono in un altro modo, ci si accorge che è fatta tutta ad intervalli di terze discendenti. E a qualcuno dovrebbe venire in mente che pochissimi anni prima, Brahms ha scritto la quarta sinfonia in cui usa un tema programmaticamente di terze, mascherate dal fatto che riprende con dei salti opposti di sesta, che è la famosa sinfonia che... dove se io metto le note in ordine diventa... sono esattamente le seste terze di questo tema di clarinetto. Voi direte, ma allora questa cellula cosa c'entra con la prima che era fatta, che era una specie di scala ornata? Era una scala ornata in modo da essere un'alternanza di seconde e di terze, ed era una scala discendente. Quella scala di gradi congiunti diventa un percorso discendente di terze, cioè vengono leggermente allargate. Poco dopo, sempre nelle battute che abbiamo già sentito, si riprende la prima delle cellule, l'inizio, e se ne dà una versione ed è un frammento che viene messo progressivamente discendente, cioè un intero frammento che scende. Vi sto dicendo queste cose che sono un pochettino tecniche per farvi capire, per contrasto, quando settimane fa si parlava di Schumann, certo questo discorso non potevo farlo. Qua è evidente un lavoro, a priori, su fogli di appunti, in cui si riflette sui materiali della musica. Non c'è un percorso diretto psiche-partitura, ma c'è una profonda riflessione sulle potenzialità di un materiale, che è un vero e proprio atteggiamento da contrapuntista rinascimentale o al massimo bacchiano. Direi che adesso possiamo passare all'ascolto di quello che sarebbe il secondo tema. Attenzione, non pensate alla drammatica contrapposizione primo tema-secondo tema che potrebbe esistere in Beethoven o in altri. A questo secondo tema si arriva sostanzialmente scivolando. Ascoltiamolo. Vi faccio soltanto notare un po' brevemente, perché forse sono andato un po' lungo nella prima parte del mio discorso, che è esattamente una scala discendente. Cioè, e sotterraneamente vi faccio notare che se io vi suono la mano sinistra, vi dovrebbe venire in mente l'inizio della sonata. Adesso questa relazione è molto mascherata, se li suoni insieme quasi non si sente. Eccetera. Ma vedremo poi che cosa succede. Passiamo direttamente all'ascolto del secondo elemento della seconda area tematica. Vi sto esattamente parcellizzando le cellule bramsiane. Sembra completamente diverso, il clima è completamente diverso, una specie di mormorio grave molto fatto di esitazione, di piccoli silenzi, ma se andiamo a guardare le note ci accorgiamo che sono tutti frammenti di scala ascendenti e discendenti. Oppure, e questo è un salto di terza che torna indietro, è terza, seconda, esattamente come nella sezione iniziale. Sono esattamente le stesse cellule, non abbiamo tempo né modo radiofonicamente di mostrare nel dettaglio, ma deve essere chiaro che il materiale è sempre lo stesso, ma il genio di Brahms è quello di piegare materiali sempre uguali a se stessi a modalità, a modi di essere esposti che ne cambiano completamente la figura, per cui sentiamo cellule apparentemente una diversa dall'altra che in realtà sono tutte parenti strettissime, più che cugini sono cellule, sono fratelli l'uno dell'altra, ma il gioco è quello dell'ambiguità. La parola più importante da dire su questo Brahms è la parola ambiguità. Direi di passare direttamente all'ascolto di un elemento dello sviluppo della sonata. Perché ve l'ho fatto ascoltare? Perché qui Brahms esce allo scoperto, e cioè la parte superiore di quel pianoforte è esattamente una scala, e quando si interrompe la scala si interrompe con un salto ascendente di quarta che è esattamente quello dell'inizio della sonata, cioè eccolo qua. E per di più c'è l'altra cosa tanto cara a Brahms, che è il canone, cioè adesso ve lo faccio come se suonasse l'ottava diversa, in realtà suona all'unisono pianoforte e clarinetto, cioè il pianoforte fa e qui entra il clarinetto. Cosa succede? Che sono, per chi fosse un po' tecnico, che sono scale che scendono costruendo però delle terze verticalmente. Cioè i due intervalli costituenti la sonata vengono messi insieme, orizzontalmente ho delle scale, dei gradi congiunti, verticalmente ho degli intervalli di terza, e infatti siamo al momento di sviluppo. Perché ve l'ho fatto ascoltare fino in fondo? Perché poi lui ne fa una variante dove la seconda della scala diventa una terza, cioè anziché fare così, fa, ed ecco che io anziché sentire la scala sento delle terze e delle seconde. Gli elementi si trasformano come delle cellule viventi, come delle cellule geneticamente viventi, e l'una diventa l'altra. Dunque, vediamo, direi che possiamo passare all'ascolto di un centro di interesse di questo primo tempo. Siamo sempre nello sviluppo e, ascoltiamo, poi commentiamo. Dovrete riconoscere il secondo tema che abbiamo ascoltato prima. Proviamoci. Nel comporre bramsiano c'è spesso una civetteria, che è quella di, da una parte, mascherare sotterraneamente le sue relazioni compositive, ma poi a un certo punto, in un angolino del pezzo, di rivelarle. Prima vi facevo notare, quando c'era il secondo tema, fatemelo ritrovare in partitura, era così. Ho fatto notare la scala discendente della parte superiore, ma questo elemento che era molto simile al primo tema, però fatto con dei valori per cui si poteva riconoscere o no. Qui invece Brahms ci dice che, come non vi accorgete che quella scala discendente del secondo tema non è altro che una specie di controsoggetto al primo tema, perché questa volta il basso fa esattamente l'inizio della sonata. Era esattamente l'inizio della sonata, se vi ricordate. Tra l'altro all'unisono. E sovrappone il secondo tema. Cioè, è esattamente 1 più 2. Questo vuol dire che il secondo tema è stato ricavato, scusate l'elemento tecnico, come controsoggetto, cioè come linea che si può contrapporre e sovrapporre all'inizio della sonata. Gli artifici del contrappunto a servizio di una musica di straordinaria espressività. Poiché il tempo è molto veloce, siamo abbastanza vicini alla fine dei miei 25 minuti, arrivo a un ultimo esempio musicale che fa sempre riferimento alla ambiguità. Una delle cose che Brahms adora di più è dare l'impressione che, non dare l'impressione, mettere in scena effettivamente un flusso continuo della musica. Ripeto, è a tre livelli. Da una parte c'è un modello classico. Il modello classico di forma sonata è negato dal fatto che tutto viene da tutto, ad esempio questo esempio appena fatto del secondo tema, che è una trasformazione esatta, o meglio che è una sovrapposizione di una linea a quella del primo tema, è un esempio totale di continuità. Ma a un terzo livello le cellule sono così piccole e frantumate da darci l'impressione di temi apparentemente ampi e solidi, ma internamente frantumati. Vi sto facendo il ritratto esatto dell'uomo del XX secolo, che vuole apparire solido e che in realtà è frantumato. Perché sto facendo questo discorso adesso? Perché voglio farvi sentire come Brahms arriva alla ripresa. Cioè, arriva alla ripresa in maniera assolutamente impercettibile. Impercettibile perché ve ne accorgete un paio di battute dopo che era la ripresa. Perché? Perché armonicamente, effettivamente, non fa nulla per cadere sulla tonalità di fa minore, che sarebbe quella della ripresa, ma lui ci arriva avendo già anticipato la nota fa al basso, un accordo del sesto grado. Questo accordo, ve lo suono più nell'acuto, è un accordo che dovrebbe andare a finire altrove dal punto di vista tonale e che invece si trasforma in questo accordo, che è la tonica di fa minore in cui si inserisce la ripresa, cioè nella ripresa si scivola e se uno è un po' distratto pensa che sia uno sviluppo. Qualche battuta dopo ci accorgiamo che era la ripresa, cioè non si spezza la forma ma la si collega. Facciamo sentire questo modo di arrivare alla ripresa. Era cambiata sia l'articolazione pianistica della ripresa, questo maschera ulteriormente, non è cambiato, ci si arriva in maniera armonicamente debolissima, avendo anticipato la nota fa tonica di fa minore su un accordo differente, e dando precedentemente un clarinetto che è già arrivato alla nota su cui dovrebbe incominciare la ripresa. Dopodiché il tema è molto riconoscibile, ma il modo di arrivarci è un modo di scivolare come una foglia morta che cade sulla ripresa. Tutto questo per dare quindi di questo primo tempo di sonata l'aspetto di una complessissima architettura interamente progettata, in cui il vero contrasto fulminante e straordinario è il contrasto che ci viene sbattuto in faccia tra un'espressività straordinariamente crepuscolare, dolcissima, e in realtà un retroterra di estremo controllo da parte dell'autore, che controlla ogni relazione e ogni collegamento di frammento. Cioè l'ambiguità sta tra un compositore estremamente attento, lucido, e un ascolto assolutamente commosso e commovente. Vi lascio eventualmente l'ascolto totale nel sito di Radio 3 per il primo tempo della sonata opera 120 numero 1 di Brahms. Buona giornata. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la sonata opera 120 numero 1 per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.